sua vita è una roulette. Il colpo prima o poi esplode. Game over per quelli come me che fanno cose senza pensare ai rischi. Apophis, pussy, marijuana e whisky. Questi dicono che si mantengono, ma sono i genitori che il frigo lo riempono. UBR rap al vero, questi non comprendono. Hanno sempre la pappa pronta e si lamentano. Tutti tatuati, vestiti bene, con al collo catene, auto e cene, donne torte, carrozziere. Morti ereditati, puffi da saldare nel quartiere, con la gente che ha più fame delle iene. Vieni a vedere qua come si sta. Tra la falsità, l'infamità, la gente che si fa, la gente che si dà, la gente che ti fa, la gente che mi fa ridere. È il rispetto che mi aiuta a vivere. Sta vita è una roulette, il colpo prima o poi esplode. Game over per quelli come me. Sta vita è una roulette, è una roulette, è una roulette. Sta vita è una roulette, il colpo prima o poi esplode. Sta vita è una roulette, è una roulette, è una roulette. Sta vita è una roulette per quelli come me. Il colpo prima o poi esplode. Game over per quelli come me. Sta vita è una roulette. La vita è una roulette, il colpo prima o poi esplode. Prega ciò che ami, non ti salverà il Signore. Inizierò a pregare quando farò un milione. Anche dovessi caricare il Papa su un furgone. Apophis Music, nella city è un faraone. Mai pentirsi di un errore, mai tradirsi nel rione. UBR gang, smazza chi di verità. Tu racconti le storie che senti dagli amici del bar. Io le vivo e poi le scrivo, tu fai quello vero figo. Ma tuo padre quando torna a casa posa il distintivo. Sto con X e faccio Big Blunt. Rap grezzo, South Park. Ignoranza, importanza, Mad Studio. I miei fra, Mike from campo, Aleman, Siga, Andrei, pochi fan. La mia gente è questa qua, la tua gente dove sta? Mad Studio è la mia gang, la mia gang. Sputiamo slang, esplosivo, Big Bang, Big Bang. Sta vita è una roulette, il colpo prima o poi esplode. Game over per quelli come me. Sta vita è una roulette, è una roulette, è una roulette. Sta vita è una roulette, il colpo prima o poi esplode. Sta vita è una roulette, è una roulette, è una roulette. Sta vita è una roulette per quelli come me. Il colpo prima o poi esplode. Game over per quelli come me. Sta vita è una roulette. Boom.